Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, l'appuntamento con la cronaca che ci parla dell'Italia in controluce. Conoscere una città attraverso i suoi percorsi, la sua memoria, le sue antiche abitudini e a volte anche attraverso i suoi vizi. È quello che si propone di fare a Genova l'associazione Itinera, che organizza gite guidate tematiche e insolite. Tra le offerte per ripercorrere la tradizione ce n'è anche una che fa rivivere le vecchie case chiuse. Andrea Ferro. Sotto i tetti d'ardesia del centro storico più grande d'Europa c'erano portoni ai quali bussavano solo uomini, senza distinzione di età e neppure di censo. Per raggiungerli il percorso era un labirinto fatto di carugi stretti che garantivano discrezione e rafforzavano quel senso di mistero e di ambiguità tipico di una città che fatica a concedere tenerezze ma impone i suoi tempi e le sue attese. Per secoli, fino al 1958 della legge Merlin, il centro storico genovese è stato un quartiere a luci rosse immenso, frammentato, a suo modo invisibile. Oggi quei crocevia del peccato rivivono attraverso un tour che periodicamente l'associazione culturale Itinera propone a chi intende sfiorarli. Silvia Simonelli è la guida. C'era un quartiere predominante dove esistevano appunto la vecchia professione, era il quartiere Montalbano, che attualmente è conosciuto più per la via più bella di Genova, ma si dice che con le tasse delle prostitute a Genova sono state costruite delle cose meravigliose, quali la facciata della cattedrale e alcune strutture del porto antico di Genova, cioè l'attuale zona dell'acquario di Genova, e per cui Genova rimane legata a questo e ultimamente naturalmente legata anche al ricordo del suo cantautore più famoso, De André, con appunto la canzone Bocca di Rosa. In certi momenti le case di tolleranza sfiorarono il centinaio. Talvolta portavano i nomi dei vicoli sui quali si affacciavano: lepre, castagna, pomino, oppure si chiamavano suprema, sottomarino, marinoir. Nelle bacheche erano elencati i termini dell'offerta, proposti i modi e tempi dell'intimità con agevolazioni per i novizi. E le maîtresse, custodi di segreti indicibili, dirigevano il via vai. Famosissima Genova, ricordata ancora dai genovesi, storicamente era la maîtresse del vico lepre, così si chiamava il lepre, la casa chiusa, che era la maîtresse più amata del periodo fascista, che voleva che tutti quanti una volta entrati facessero il saluto romano, ad esempio. Famosissima era quella della zona in San Lorenzo, della cattedrale, dello squarciafico, così si chiamava la casa chiusa, che per la voce stridulissima veniva chiamata il Pinocchietto. Altre erano più importanti dal punto di vista proprio di casa, e addirittura c'erano maîtresse che permettevano sotto banco addirittura di portare minorenni. Si racconta della maîtresse Mary che faceva accedere minorenni, parliamo comunque di ragazzi formati di 18 a 21 anni, e che dava loro delle signore anzianotte, e loro andavano in giro raccontando di emozioni fortissime. Poi erano fondamentalmente delle frottole per parlare in Piazza dei Ferrari con gli amici. Storie di donne, giovani, sfruttate, schiavizzate, come oggi le ragazze straniere traghettate sui marciapiedi delle banlieue nostrane. Alcune riemergono nei racconti che si snocciolano durante il tour. Le ragazze sicuramente, diciamo che facevano la vita, e sicuramente c'era uno sfruttamento. Dai tempi più storici Genova è legatissimo al lavoro, perché chi entrava ad esempio prima del 1500 in questo quartiere rosso pagava una tassa e venivano, diciamo, sfruttate da un certo punto di vista, perché comunque erano lavoratrici del centro storico di Genova. E la frase, il nome più carino che si dava a queste signore, a parte tutto quello che può venirci in mente, era la signora della candela, perché non essendoci naturalmente ancora gli orologi, o comunque gli orologi stavano solo in casa dei ricchi, loro per avere più prestazioni durante una notte facevano un'attacca su una candela, tipo il nostro cero da battesimo, e quando la fiamma consumava la cera loro passavano il cliente, era un modo per incentivare molto di più. Altre erano signore particolari, parliamo poi della legge Cavour, per cui degli ultimi anni naturalmente della fruizione delle case di tolleranza, le ragazze erano particolari, nel senso che a Genova ce n'era per tutti i gusti, c'erano ragazze di colore, ragazze bianche, rosse, anche addirittura ce n'era anche per quelli che avevano manie particolari, cioè ragazze che si imbruttivano ancora di più, si facevano più bianche, quasi da malato, per avere questa sensazione di dominazione dell'uomo anche sulla ragazza malata. Sicuramente la situazione all'interno, le ragazze erano obbligate a fare il mestiere, addirittura si ritirava in quelli che erano documenti e veniva apposto sopra un simbolo che in ogni posto dove andavano erano nominate per il mestiere che facevano. Italia in controluce. E ora parliamo di sport, e in particolare di impianti sportivi a Milano, con delle conclusioni per niente rassicuranti. Dario Ricci. È passata appena poco più di una settimana. Loro, i New York Knicks di Danilo Gallinari, targati NBA, sono tornati a casa dopo la grande festa della gara con l'Armani Jeans al Forum di Assago. E a Milano, oltre alla malinconia, è rimasta anche la paura di non rivederli più, né loro né l'NBA. Perché? Per la mancanza di impianti sportivi adeguati. Il Forum non ha passato l'esame. E poi il velodromo Vigorelli è in attesa di ristrutturazione, come l'arena, tempio dell'atletica leggera. Manca un palasport di livello internazionale nazionale e una piscina olimpica per ospitare le grandi manifestazioni. Da qui l'atto d'accusa del presidente del CONI Lombardia, il grande ex del basket italiano Pierluigi Marzorati. Come si fa a definire una capitale europea dello sport una città che non ha un impianto, se non forse San Siro, ma solo per il calcio? La realtà è questa, che siamo un paese dal punto di vista impiantistico e sportivo da terzo mondo. A un milanese doc, Pino Zoppini, architetto esperto nella realizzazione di impianti sportivi olimpici, il compito di elencare le priorità. Innanzitutto la piscina di dimensioni olimpiche, il secondo impianto che io penso essere indispensabile è un palazzo del ghiaccio. Il terzo impianto è un idoneo pista di atletica leggera. Un altro milanese, un'altra leggenda della pallacanestro italiana, Sandro Gamba, inquadra subito l'obiettivo: lavorare bene ora per essere promossi a pieni voti all'appuntamento più atteso. Milano ha bisogno di una squadra di basket numero uno, una squadra di calcio numero uno, e dobbiamo prepararci bene per l'esposizione del 2015, perché meritiamo questa assegnazione e meritiamo di essere primi nel mondo. Qualcosa si sta muovendo. Da pochi giorni la partnership tra Comune e Gruppo Armani ha permesso di dare il via alla ristrutturazione del Palalido. 7 milioni di euro di investimento, sarà pronto a primavera. Ma è solo il primo passo, anche perché, al di là di polemiche e banchetti transregionali, attraverso la rinascita di Milano, metropoli dello sport, passa anche il successo di Roma nella corsa all'assegnazione dei giochi 2020. Alan Rizzi, assessore allo sport e tempo libero del Comune di Milano. Me lo auguro anch'io, anche perché comunque stiamo parlando di, noi dobbiamo promuovere il nostro paese, quindi Expo e Olimpiadi nel 2020, insomma, sarebbero due conquiste meravigliose. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto anche per oggi. Scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata.